24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Contro la crisi serve unità e volontà politica, così a Strasburgo Barroso, che assicura la Grecia rimane nell'euro. Rappresentare l'Italia è una responsabilità, ma ne sono fiero, così il regista crialese Radio 24 dopo la candidatura agli Oscar per il suo film Terraferma. Il Consiglio d'Europa e la UEFA scendono in campo contro le scommesse illegali. Bentrovati da Roberta Pellegatta a un nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. La crisi in primo piano, controllo sulle politiche fiscali dei singoli stati, stretta sul debito, multe semiautomatiche per chi non si adegua. Queste le novità introdotte con la riforma della governance approvata definitivamente dal Parlamento europeo a Strasburgo. Sul fronte della Grecia oggi la Troica, Unione Europea, BCE e Fondo Monetario tornerà ad Atene, poi ad ottobre è previsto un vertice straordinario dei ministri dell'Eurozona per valutare la situazione. Istituzioni europee in soccorso degli stati nazionali parlano Trichet e Barroso con un obiettivo: compattare l'Unione Europea laddove è più profondo il vuoto sul fronte politico. Più abbottonato il primo, più diretto il secondo. Il presidente della BCE e il presidente della Commissione concordano su un fatto: questa è la crisi peggiore che l'Europa abbia mai affrontato. Una crisi che mette a dura prova tutte le strategie, dice Trichet, ma le soluzioni ci sono, incalza Barroso, a patto però di restare uniti, affrontare i problemi e sostenere la moneta unica. Tanto per cominciare, la Grecia è e resterà nell'euro, senza vie di mezzo. Altro passo è l'attuazione di scelte già fatte, per esempio l'aumento del fondo salva stati. Anche gli eurobond sarebbero utili, vantaggiosi, li definisce Barroso, ma solo una volta che l'integrazione avrà fatto passi in avanti. Se vogliamo avere un mercato unico, ribadisce il presidente, i governi non possono fare da soli. Poi Barroso cala l'asso: la Commissione ha adottato ufficialmente la proposta di introdurre un sistema comune di tassazione sulle transazioni finanziarie. Il sistema, se adottato dal 2014, potrà dare un gettito annuo di 55 miliardi, una prima risposta a chi finora ha accusato l'Europa di eccessiva lentezza di fronte alla crisi. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Più forza l'Europa rispetto agli Stati membri. Il vicepresidente della Commissione europea Antonio Tajani è intervenuto sulla scia del presidente Barroso, dicendosi certo che la Grecia ce la farà grazie all'aiuto dell'Europa. Lo sentiamo al microfono di Francesco Maisano. La Germania è stata molto chiara attraverso le parole del cancelliere Merkel, che intende salvare la Grecia. Siamo tutti convinti che la Grecia resterà nella zona euro. Questo non significa che, quando noi diciamo serve l'Europa comunitaria, serve più federalismo e meno azione intergovernativa, che siamo contro gli Stati membri, però serve un coordinamento maggiore, diverso, dove prevalga l'interesse dell'Europa, non l'interesse dei singoli Stati membri. Questa è un po' la differenza. Ma da questo punto, per quanto riguarda i contenuti, io sono ottimista, sono convinto che il Fondo Salva Stati continuerà a funzionare, ci saranno le risorse necessarie per salvare la Grecia, per difendere l'euro, quindi in prospettiva, con una serie di azioni che abbiamo avviato, a cominciare dalla tassazione sulle transazioni finanziarie, che puntano a far crescere l'economia reale, quindi a distogliere l'attenzione della finanza, dalla speculazione tout court, orientarla verso l'economia reale, con la decisione di andare avanti sui project bond e sugli euro bond, chiamiamoli stability bond, significa che l'Europa ha una strategia, che la Commissione europea ha una strategia per la difesa dell'euro, ma nello stesso tempo per la crescita. E in Grecia ancora gravi disagi a causa della seconda giornata di sciopero dei mezzi di trasporto pubblici. I lavoratori protestano contro la norma che prevede la sospensione provvisoria del personale in eccesso, almeno il 10%, nelle imprese a partecipazione statale e in altri enti statali, mentre i proprietari di taxi protestano contro la liberalizzazione della loro professione. E battuta d'arresto per le borse europee dopo i consistenti rialzi delle ultime tre sedute, in attesa del voto del Parlamento tedesco sul potenziamento del Fondo Salva Stati, il nervosismo ha fatto da padrone sulle piazze del vecchio continente. Londra chiusa a meno 1,44%, Parigi a meno 0,92%, Francoforte a meno 0,89%. A Piazza Affari il FTSE MIB ha perso lo 0,47%. Sono scattati i realizzi sui bancari e sui titoli finanziari. Il calo del prezzo del greggio ha pesato anche sui petroliferi. A Milano i titoli dei principali istituti di credito hanno registrato un andamento contrastato. Intesa San Paolo ha lasciato sul parterre un frazionale 0,09% a dispetto del taglio dell'outlook da stabile a negativo da parte di Fitch. Hanno continuato a rimanere sotto i riflettori le BPM meno 1,5% all'indomani del Consiglio di amministrazione che ha varato l'adozione del sistema di governance duale e ha fissato in 800 milioni l'aumento di capitale che deve essere lanciato entro l'anno. La partita per la Popolare milanese, però, è ancora tutta da giocare. Occorrerà comprendere chi entrerà nell'azionariato dell'istituto nel corso dell'aumento di capitale e chi salirà ai vertici della banca. Si sono inoltre distinte le lottomatica più 2,5% e le impregilo più 3,4%. Fuori dal paniere principale si sono infiammate le Archimedica più 22%, che così dallo scorso 19 settembre hanno guadagnato oltre il 200%. Secondo indiscrezioni, l'azienda è nel mirino della famiglia francese Mulier, la proprietaria dei grandi magazzini Auchan e Decathlon. Eleonora Micheli da Radio Corp per Radio 24 e Il Sole 24 Ore. Voltiamo pagina. È morto negli Stati Uniti l'inventore del pacemaker impiantato per la prima volta nel 1960. I pulled out the wrong resistor out of a box and got a Un ingegnere prestato alla medicina che ha salvato milioni di vite. Il nome di Wilson Greatbuck ai più non dice molto, ma l'invenzione che lo consacrerà per sempre nella storia, sì. A lui si deve l'invenzione del cuore meccanico, il pacemaker. Ora è il suo cuore ad essersi spento. È morto a Buffalo, negli Stati Uniti. Aveva 92 anni. Una vita lunga per un uomo che ne ha dedicato gran parte a regalare giorni, mesi, anni in più anche ad altri. Il primo pacemaker venne impiantato su un essere umano nel 1960. Il paziente, 77 anni, visse altri 18 mesi dopo l'intervento. Un'intuizione geniale. Oggi centinaia di migliaia di persone ricevono un pacemaker ogni anno. Wilson Greatbuck ha guidato fino all'ultimo l'azienda che porta il suo nome. Gli eredi continueranno a produrre ora le batterie per tanti cuori meccanici, ora che quello del suo inventore si è spento. Anna Migliorati, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo allo sport. Champions League ed Europa League sono in pieno svolgimento, ma intanto UEFA e Consiglio d'Europa provano a contrastare il fenomeno delle scommesse illegali. Una raccomandazione, anzi un passo decisivo, anche se è solo il primo passo, come l'ha definita il presidente dell'UEFA Michel Platini. Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha adottato infatti una raccomandazione per chiedere ai governi dei 47 Stati membri di prendere misure contro il fenomeno delle scommesse illegali online e delle partite truccate. Ma Platini nella sua visita a Strasburgo già va oltre. Sarebbe fantastico se adesso l'esecutivo del Consiglio d'Europa iniziasse a lavorare a una convenzione contro gli incontri sportivi combinati, ha spiegato il numero uno dell'UEFA. Nella raccomandazione, che a differenza della convenzione non è un testo legalmente vincolante, il Consiglio d'Europa invita i 47 Stati membri a far sì che la loro legislazione prevede il reato di frode sportiva, mettendo a disposizione degli investigatori strumenti adeguati come le intercettazioni. Servono poi leggi ad hoc, la possibilità di identificare scommettitori e tracciare flussi finanziari, di tutelare gli organizzatori di eventi sportivi. Resta comunque essenziale, secondo i ministri europei, l'azione di coordinamento e prevenzione tra i singoli stati dell'Unione. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il cinema in chiusura è Terraferma di Emanuele Crialese, il candidato italiano agli Oscar per il miglior film in lingua non in inglese. Lo ha annunciato ieri la commissione di selezione istituita all'Anica. Le nomination saranno rese note dall'Academy il 24 gennaio 2012, mentre la notte degli Oscar si celebrerà il 26 febbraio. È un punto di partenza, commenta il regista al microfono di Marta Cagnola. Sono quelle emozioni che sono sempre molto forti, non c'è una seconda, una terza volta. È come la nascita di un bambino, ogni volta è una grande emozione, anche se ne fai 10. Però adesso è anche una responsabilità in più, perché questo film dà un'immagine dell'Italia. Guarda, è un film che ha un'identità profondamente italiana, però non è un film che possono capire solo gli italiani, secondo me. È un film che porta al pubblico un tema universale, che è il tema della solidarietà. E io credo che questo sia un tema a cui si devono confrontare tutti i paesi del mondo. Quindi me la prendo questa responsabilità, me la prendo perché comunque so che i valori che trasmette sono valori, credo, condivisibili. A volte vengo accusato su questo film di essere politically correct. Va bene, allora io ci sto, non la prendo come un'accusa, la prendo come un complimento, correttezza, rispetto verso l'altro, non c'è bisogno di scioccare per attirare il pubblico in sala, quindi io mi prendo questa responsabilità e mi piace che Terraferma ci rappresenti in questo momento.